Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sarei diventato il signor 30 milioni, ma avrei dovuto abbandonare per sempre quel clima festoso e confidenziale. Ne parlai con Giorgio e Luca, che si fecero una risata. Non pretendevano certo che io anteponessi il bellissimo rapporto che si era creato al mio futuro, anche se un po' lo speravano. Mi chiamo Alberto, ho 55 anni, vivo a Spino d'Adda, in provincia di Cremona, ho moglie e due figli e attualmente faccio il consulente nel settore informatico e fiscale. Da qualche tempo mi capita ogni tanto di andare a fare una corsetta al parco vicino a casa mia e di solito la faccio con le cuffie nelle orecchie. Domenica scorsa sono andato anche con Paolino Corleoni, che però non riesce a fare più di tot chilometri. A un certo punto è tornato indietro, invece io ho continuato. Invece c'è questo parco vicino a casa mia, Parco Ravizza a Milano, dove vado appunto ogni tanto a fare una corsetta, ed è un quadrato, quindi ci giri intorno per tutto il tempo e incontri e vedi più o meno le stesse persone che hai visto in quella mezz'ora in cui ti trovi lì. Stamattina invece sono andato senza le cuffie, semplicemente perché me le ero dimenticate. E quindi tu senti dei piccoli pezzi di discorsi che le persone fanno quando le incroci, no? Se vai molto molto veloce ne senti poco, se vai invece lentamente, come capita a me, riesci a sentirne un po' di più. E questa mattina sono stato a tanto così dal commuovermi, perché ho incontrato una mamma, una signora sui 50 anni, con il bambino. Il bambino aveva il suo zaino sulle spalle, era, sapete, quei bambini leggermente sovrappeso, che quindi già ti immagini in classe che cosa possa succedere. E la mamma, con un tono amabile, raccontava questa piccola storia. Cioè, io me la sono immaginata così, come una storia, ovviamente, nella mia testa, perché poi sono andato avanti e loro sono andati dall'altra parte e li ho persi. La mamma diceva così al bambino: vedi, ci sono delle persone che fanno le cose per vincere. E poi li ho persi. Però mi è bastato questo, perché la faccia del bambino, che aveva lo sguardo basso e lo zaino in spalla, e lei che cercava di rendergli, come dire, più dolce la vita, un pezzo di storia che mi porto dietro da stamattina. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24 e al di là della storia della mamma e del bimbo al parco, noi continuiamo a raccontare storie. Lo facciamo tutti i giorni alle 16 in diretta su Radio 24. Potete scaricare i podcast dove volete, sul sito oppure attraverso lo streaming sulle vostre app o in diretta sul vostro computer. La storia che raccontiamo oggi, appunto, non è ambientata in un parco, è ambientata forse in una sorta di parco giochi, quel parco giochi che sono stati gli anni 80 in qualche modo, e per qualcuno che subito evocano dei termini tipo paninari, tipo yuppies oppure yappies per chi mastica l'inglese. C'era una canzone di Luca, era un cantante romano, vabbè, mi verrà in mente. Yuppies oppure yappies, paninari e anni 80, questa è la storia del signor 30 milioni. Genova 1986. Ero in trasferta da quasi 2 anni in quella città meravigliosa. Lavoravo come programmatore IBM S38, l'antenato del AS400, in una compagnia di assicurazioni svizzera. Trasferta a piedi lista, bellissimo albergo a Quinto. La mia Renault 5 con rimborso chilometrico e parcheggio riservato sotto l'ufficio. Nessun controllo orario e la possibilità di cenare nei migliori ristoranti della Riviera a spese dell'azienda. Inoltre ero lì con Giorgio, il mio capo, un adolescente separato di 29 anni, e Luca, il direttore generale svizzero di 31, figlio in carriera di un grosso dirigente della Mercedes. Subito eravamo diventati grandi amici, anche per solidarietà tra trasfertisti. Talvolta, dopo aver cenato e fatto serata, andavamo a casa di Luca e ci scolavamo quantità industriali di brandy Carlos Primero. Poi ci addormentavamo ognuno in una camera diversa. Ce n'erano 5 con altrettanti bagni. La mattina mi svegliavo io per primo verso le 9. Chiamavo gli altri due e Luca, il direttore generale, mi diceva: ma non rompere, tanto quando arriviamo in ufficio Giorgio firma il permesso a te, io lo firmo a lui e recuperiamo sabato mattina, tanto ho le chiavi. Arrivavo da Milano ed ero stato trasferito a Genova per un'attività professionale. Non ero molto contento di essere a Genova, però grazie agli amici e alle persone che ho incontrato a Genova nell'ambito lavorativo, la cosa si è trasformata in una splendida esperienza. Costituivamo una task force che avrebbe dovuto portare la direzione generale a Milano e chiudere la sede di Genova. ma l'impresa non si era rivelata per nulla semplice. In quel periodo feci un incontro importante. Avevo conosciuto la donna di Milano che sarebbe diventata mia moglie. Non ne potevo più di stare lontano da lei. Ora volevo tornare a Milano. Risposi quindi ad alcuni annunci di ricerca lavoro a Milano e una società di selezione mi rimediò a un colloquio in una banca. Faccio un'ottima impressione, presentandomi in giacca blu Cerruti con bottoni bruniti, camicia bianca, cravatta grigia e azzurra regimental, pantaloni grigi e scarpe nere. Brucio le tappe. Qualche giorno dopo incontro il direttore del personale. Mi preannuncia che di lì a una settimana mi sarei dovuto presentare a ritirare la lettera d'impegno per 30 milioni lordi annui. Sede di lavoro Milano da subito e un sacco di soldi. Ma intanto dovevo tornare a Genova e dirlo ai miei amici e colleghi. Sarei diventato il signor 30 milioni. Ma avrei dovuto abbandonare per sempre quel clima festoso e confidenziale tra asilo e caserma che si era creato tra noi tre. Ne parlai molto seriamente con Giorgio e Luca e loro si fecero una risata. Mi avrebbero pagato 30 milioni di lire di allora, che adesso sono più o meno equiparabili ad una bella cifra, circa 50.000 euro. Questa cifra non era molto più di quello che guadagnavo a Genova, considerando il fatto che fossi in trasferta, ma io volevo tornare a Milano perché ormai avevo una ragazza a Milano e mi volevo sposare con lei. Ma no, non puoi andare via, esordì Luca. Guarda, io non ho budget per alzarti lo stipendio. Per ora però ti aggiungo una voce sostanziosa al rimborso spese e ti alzo il rimborso chilometrico. Poi la sede di Milano è quasi pronta, in Piazza della Repubblica. Ci vai l'anno prossimo anche con un passaggio di livello. Comunque, la scelta deve essere tua, mi dice. Mi rendo conto che 30 milioni sono tanti. Insomma, non pretendevano certo che io anteponessi il bellissimo rapporto che si era creato tra noi al mio futuro, anche se un po' lo speravano. Ma inconsciamente avevo già fatto la mia scelta. La settimana dopo mi presentai alla banca di Milano, sempre con la mia preziosa giacca Cerruti, con bottoni bruniti, ma qualcosa era cambiato. Il direttore del personale mi dice che per la banca c'è stato qualche problema formale, noi però abbiamo il suo curriculum e si aspetti colloqui con altre aziende a breve. Perfetto, missione compiuta. Il signor 30 milioni era stato neutralizzato e con Luca e Giorgio brindai almeno 4 volte quella sera. Poi l'ufficio a Milano arrivò con calma, il passaggio di livello anche, ma quell'universo di amicizia e intimità fu la vera ricchezza di quell'esperienza, che durò finché il destino non la interruppe bruscamente. Giorgio infatti morì in uno stupido incidente automobilistico pochi mesi dopo e Luca fu richiamato alla sua brillante carriera in Mercedes, dove suo padre era direttore. Decisamente simpatica Alberto nella foto che ci ha mandato e che vi consiglio di andare a vedere sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina. Voi siete qui, capelli molto molto corti, pizzetto molto molto corto, ma soprattutto un sorriso che, devo dire, se ne vedono pochi in giro in questo periodo. Pronto Alberto, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Bene, bene. Senti, hai un bellissimo sorriso, non so se ce l'hai sempre o solo in questa foto, però insomma sembri una persona felice, mi verrebbe da dire. Azzardo questa parola, Alberto. Direi abbastanza. Ok, ok. Hai subito... Ovviamente sono abbastanza felice. Hai subito abbassato tutto il mio entusiasmo, ma hai fatto benissimo. Dove sei in questa foto? Sei appoggiato a un monumento, a qualcosa di particolare? In quella foto sono alla... un'esposizione alla Triennale a Milano. Ah, ok, ok. Quindi è una specie il di parco della Triennale, certo. Palazzo dell'arte da quelle parti. Certo, certo, dove ci sono delle bellissime opere esposte, dove si può, esatto, quindi si può vedere la città contemplando delle cose belle ed ero quindi... decisamente felice. Eri felice. Quindi diciamo, questo è già un dato. Sei tornato a Milano e ci sei rimasto, giusto? Sì, ci sono rimasto per 25 anni, cioè per tutta la mia carriera. Sei qui da 25 aziendale. Anni. Adesso per chi lavora, insomma, non il nome, però che tipo di azienda è, cosa fai? Adesso da un po' di tempo faccio il consulente nel settore dell'informatica e fiscale. Okay. La mia vita aziendale si è chiusa grazie o per colpa della signora Fornero qualche anno fa, e non avevo previsto che il mio momento di pensionamento si allontanasse ancora di qualche anno, però insomma va bene così. Ma quindi appartiene alla categoria degli esodati, oppure c'è stato invece un giro strano? Cioè non appartengo alla categoria degli esodati, però quasi, diciamo. Cioè ti sei trovato di fatto a doverti aprire una partita IVA, mi sembra di capire, in sostanza. Sì, esatto. Ok. Esatto. Però come va? Insomma, te la cavi, procedi per la tua strada? Direi che grazie da un certo punto di vista alla crisi mi sto trovando anche qualche possibilità di seguire un po' le mie passioni tradizionali, che sono fondamentalmente la fotografia e la scrittura. Ok. Senti, questo pezzo che ci hai mandato, torniamo con la storia lì, è una splendida fotografia degli anni Ottanta, nel senso che c'è un po' tutto, dalla Reno 5 alla voglia di divertirsi fino appunto ai 30 milioni, che parlare di milioni non ci si è più quasi abituati, perlomeno noi che non ne guadagniamo in milioni di euro, intendo dire, no? Però sì, quando senti parlare di 30 milioni sembra una cifra wow, 30 milioni, chissà che vita si poteva permettere oggi. Sì, in realtà lo stipendio, considerando che ero al tempo in trasferta a Genova, piedi certo. Lista, con rimborso chilometrico. Piedi lista, che parola meravigliosa questa. Cioè che qualsiasi cosa tu spendessi, op, rimborso, a posto. Esatto. Ok, perfetto. Esatto. Il miglioramento economico c'era, ma non era così determinante. In realtà avevo incontrato la ragazza che poi avrei sposato. Che è ancora tua moglie, giusto? A Milano. È ancora siete ancora sposati, è ancora tua moglie? Sì, ancora mia moglie, abbiamo due figli, ci siamo spostati dalla città un po' alla campagna, infatti abitiamo a Spino d'Adda, vicino a Crema, vicino a Lodi. Certo, Spino d'Adda non c'è quella vista bellissima sull'Adda passando dall'autostrada, no, quello è Trezzo d'Adda, forse sto dicendo. No, quello è Trezzo. Perfetto, non è ancora azzeccata una. Però insomma è stato di fatto quel momento, quindi questo racconto, un momento di svolta della tua vita? Giusto, Alberto. Cioè, è stato un momento di svolta, è stato un momento di soprattutto di grande amicizia con le persone con cui ho fatto quell'esperienza e che francamente sembrava non dovesse finire mai. Ah, poi certo, invece a un certo punto è finito. Tra l'altro mi pare di capire, uno in maniera anche traumatica, visto che uno di quegli amici non c'è più, è morto poco dopo, scrivevi. Uno di quegli amici è morto in una maniera, diciamo, molto banale, e l'altro, vabbè, è andato alla sua carriera. L'altro l'hai più sentito? Il manager Mercedes l'hai più sentito? Luca si chiamava, giusto? No, non l'ho più sentito. Non l'ho più sentito. Quindi rimane proprio una fotografia di quel periodo. Senti, tu, quindi, di che anno sei esattamente, Alberto? 1960. Quindi tu gli 80 te li sei vissuti in maniera abbastanza presente? Sì, me li sono vissuti. Che oggi, so che è una domanda banale, però in due parole, che ricordo hai di quel decennio lì? Io in quel decennio, innanzitutto un decennio in cui non era difficile trovare lavoro e specialmente nel settore dell'informatica. Certo. Per cui c'erano tante porte aperte, c'erano delle autostrade spianate davanti a noi. Insomma, era un po' più facile da un punto di vista professionale. Questo nel settore dell'informatica. Sì, chiaro. So. No, certo, però in questo indubbiamente abbiamo fatto quasi 10 giorni fa una puntata di un ascoltatore che aveva lavorato a Cupertino per la Apple e ci diceva più o meno la stessa cosa. Senti, questa splendida giacca Cerruti con i bottoni bruniti, ce l'hai ancora? Ce l'ho ancora, cioè, sì. La usi ancora per i momenti importanti? No, lei la cravatta regimentale la tieni da conto, insomma. Alberto, un po' lo tengo come cimento. Va bene. Sì. Alberto, ti ringrazio ancora per la storia e la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao, a presto. Ciao. Tutte le storie che arrivano qui al programma, ambientate negli anni Ottanta, hanno sempre una patina particolare. Gli anni Ottanta sono ricordati da tutti per i soldi che giravano, per l'avvento della televisione commerciale e per il non pensare più a lungo di tanto così. Il benessere era generalizzato e tutte le nostre famiglie avevano delle possibilità economiche molto diverse da quelle di oggi. Noi siamo un po' abituati a pensare agli anni Ottanta come ad un decennio superficiale, no? Il decennio del bodybuilding, di Stallone, di Schwarzenegger, di Madonna, di Michael Jackson e di Jerry Calà. Il decennio dell'ostentazione della ricchezza e del vivere un po' senza troppe menate. E proprio per questo li abbiamo sempre guardati con una punta di superiorità. Ma gli anni Ottanta sono stati anche e soprattutto altro. C'è chi addirittura li ha rivisti, a posteriori, come uno dei migliori decenni della storia moderna, iniziato con la minaccia della guerra fredda e terminato con gli accordi per lo smaltimento degli arsenali nucleari. È stato uno dei decenni più pacifici della storia, e come ricaduta di questo nella vita di tutti noi, è stata un'epoca di grande ottimismo, di speranze, dove sembrava che il mondo potesse prendere addirittura una direzione migliore. Sono gli anni, ovviamente, del crollo del muro, della Glasnost, la serie di riforme di Gorbaciov. Sono gli anni di Solidarnosc, dell'elettricista Wałęsa in Polonia, e della rivoluzione di velluto dell'intellettuale Havel in Cecoslovacchia. Gli anni del crollo del blocco sovietico e del definitivo superamento della conferenza di Yalta, quegli accordi che spartivano il mondo in blocco occidentale e blocco sovietico. Durante gli anni Ottanta c'è stata anche, in conseguenza al disastro di Chernobyl, la prima presa di coscienza che il mondo è un posto da proteggere e non solo da sfruttare. Nel mio piccolo, dopo Chernobyl, mi ero iscritto al WWF, sezione di Romentino. Sono stati però anche gli anni delle proteste di Piazza Tiananmen, del ragazzo che da solo e disarmato blocca la colonna dei carri armati. Ho tenuto per anni un manifesto con quell'immagine appeso in camera. In quegli anni è caduto Pinochet. Sono gli anni Ottanta che hanno gettato le basi della mia generazione. Noi eravamo un po' troppo piccoli per essere dei paninari, per vestirci solo con vestiti firmati e per arrivare al bar appoggiando l'autoradio sul tavolino, ma eravamo abbastanza grandi per ricordarci certi avvenimenti epocali. Sono stati anni leggeri, ma la storia, quella con la S maiuscola, in quegli anni è stata scritta. E se oggi ci siamo abituati ad associare gli anni Ottanta a dei fatti prevalentemente di costume, è solo una nostra semplificazione. È perché abbiamo bisogno di dare un titolo a tutte le cose. Gli anni Ottanta sono vittima di un nostro radicato pregiudizio. È la storia di Alberto a indicarcelo. La sua storia è tanto più romantica perché è immersa in un ambiente che è tutto tranne che romantico. Sembrerà assurdo, eppure rinunciare a un sacco di soldi per l'amicizia che si era creata era possibile anche negli anni Ottanta. E alla fine, dalla storia di Alberto, ho capito che, primo, la Renault 5 era davvero brutta, ma la giacca coi bottoni bruniti lo è molto di più. 2, il rimborso spese è da sempre una scappatoia per aumentare lo stipendio. 3, le serate tra asilo e caserma e la solidarietà tra trasfertisti alla fine sono la stessa cosa. 4, in banca è sempre stato un bel lavorare. 5, se vuoi sceglierti un soprannome come Mister 30 milioni, sceglilo solo se di mestiere fai calciatore. Due 38 66 66. Ringrazio Claudio che mi scrive che quello che cantava Yuppies oppure Yuppies, per chi mastica l'inglese, che avevo detto, avevo usato in apertura di puntata, è Luca Barbarossa, però non mi ricordo più in quale canzone. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina, ma soprattutto i miei ringraziamenti vanno a lui, vanno ad Alberto, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Oh, Castelli di Borgo Abugiano, la storia di domani è la mia e parlo di ciclismo e telefoni cellulari. Questa è la mia storia e io sono qui.